La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ancora una volta ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con La storia e la memoria. In occasione del centenario della nascita, Dino Pesole dedica il suo approfondimento alla figura di Eugenio Colorni, che con Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi partecipò alla scrittura e alla pubblicazione del Manifesto di Ventotene. Ospite ai nostri microfoni Francesco Gui, docente di Storia dell'Europa presso la Facoltà di Scienze Umanistiche alla Sapienza di Roma. Nella seconda parte vi proponiamo, in collaborazione con History Channel, un radiodocumentario sugli orrori che hanno avuto luogo nel campo di concentramento tedesco di Auschwitz. Ma ora la parola a Dino Pesole. Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni, tre grandi protagonisti del moderno europeismo. Idee e progetti rivoluzionari per l'Europa scossa fin dalle fondamenta dalla catastrofe della Seconda Guerra Mondiale, concepiti da uomini sottoposti al confino forzato a Ventotene dal regime fascista. Per rievocare la figura di Eugenio Colorni in occasione del centenario della nascita, si è svolta lo scorso 4 dicembre a Roma, presso l'Enciclopedia Italiana a Palazzo Mattei di Paganica, una manifestazione organizzata dal Comitato Nazionale Eugenio Colorni, in collaborazione con il Comitato Nazionale Altiero Spinelli e il Movimento Federalista Europeo. E questa sera abbiamo in studio con noi il professor Francesco Gui, che è docente di Storia dell'Europa presso la Facoltà di Scienze Umanistiche alla Sapienza di Roma e segretario del Comitato Spinelli. Professor Gui, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Studioso di filosofia, Eugenio Colorni si laurea nel 1939 con una tesi su Leibniz. Nel 1935 entra a far parte del Centro Interno Socialista, organismo di collegamento dei socialisti in Italia. Arrestato nel 1938 dalla polizia fascista, dopo un periodo di detenzione nel carcere di Varese, è condannato a 5 anni di confino nell'isola di Ventotene, dove prende parte con Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi all'elaborazione del manifesto che porta il nome di quell'isola. Evaso dal confino nel maggio del 1943, Colorni si trasferisce a Roma, dove provvede alla pubblicazione del Manifesto di Ventotene, scrivendo nella prefazione. Muore ad appena 35 anni a Roma, alla vigilia della liberazione della capitale, per mano di una pattuglia della polizia fascista. Professor Gui, come possiamo commentare per i nostri ascoltatori la figura di Eugenio Colorni? Rispetto a Spinelli, che è padre fondatore dell'Unione Europea riconosciuto a livello ufficiale, e Ernesto Rossi, che è stato un grande riferimento anche per, pensiamo, al Partito Radicale, che insomma che si ispira a lui, Colorni è rimasto un po' in ombra in genere, un filosofo, quindi la sua lettura è anche più impegnativa e difficile, diciamo, e meno per i non addetti ai lavori, però in realtà merita di essere un po' riscoperto meglio, perché in fondo fra i tre era l'unico ad essere un dirigente di un partito, era uno dei massimi riferimenti del Partito Socialista di allora in Italia. Ecco, capire perché uno come Colorni pubblichi clandestinamente nel maggio del 44 il Manifesto di Ventotene con una sua prefazione è una cosa interessante. È molto intenso appunto il rapporto di amicizia e di proficuo scambio intellettuale che lega Colorni a Spinelli e Rossi. Maestro dell'anima, lo definirà Spinelli nella sua autobiografia, per un'Europa libera e unita. Questa l'idea forza del Manifesto di Ventotene. Il problema che in primo luogo va risolto è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali sovrani. Il crollo della maggior parte degli stati del continente sotto il rullo compressore tedesco ha già accomunato la sorte dei popoli europei, che o tutti insieme soggiaceranno al dominio hitleriano, o tutti insieme entreranno, con la caduta di questo, in una crisi rivoluzionaria in cui non si troveranno irrigiditi e distinti in solide strutture statali. Gli spiriti sono già ora molto meglio disposti che in passato a una riorganizzazione federale dell'Europa. Allora, professor Gui, il Manifesto di Ventotene è un manifesto, diciamo, molto noto ed è unanimemente considerato come, diciamo, il punto di partenza di quello che poi diverrà a fatica, con un processo lungo e laborioso, il percorso di unificazione europea. Colorni, che tipo di contributo diede al manifesto? Sì, intellettuale perché discutendo a Ventotene, poi è una intelligenza, come il professor Gennaro Sasso ha sottolineato, molto penetrante, che metteva tutto in discussione, che non si accontentava di certezze, così quindi è stato uno sparring partner estremamente efficace, ma dopodiché ha pubblicato poco prima di morire clandestinamente a Roma durante la Resistenza il manifesto con una sua prefazione. Ora, appunto, come dirigente socialista, cioè, si guarda il manifesto per tutte le cose preveggenti che ci sono, però bisogna anche rendersi conto che lì c'era una contestazione molto forte del marxismo e un dirigente di un partito che ancora si ispirava al marxismo, che introduce questo dibattito mentre combattono contro il nazifascismo, beh, fa un'operazione culturale da non sottovalutare. Certo, un aspetto peraltro nemmeno molto conosciuto questo. No, difatti, eppure questi sono dei pochi riferimenti fondanti, se ci pensate, della Resistenza della Repubblica, cioè che mostrano che gente molto previncente, molto giovane, questo ha 35 anni, poveretto, è morto, ma anche Spinelli aveva la stessa età, pur impegnati nella lotta antifascista, cominciavano a vedere che il marxismo non era sufficiente a motivare i movimenti popolari e c'era bisogno di un altro riferimento, ma che loro vedevano altrettanto rivoluzionario, cioè non una cosa solo tecnica, facciamo la Federazione Europea, è la strada migliore per realizzare anche gli ideali del socialismo, nel senso più generale e umanitario del termine. Nella nuova forza sovranazionale europea, si legge nel manifesto di Ventotene, le ricchezze dovranno essere redistribuite e il governo dovrà essere deciso sulla base di elezioni a suffragio universale. Il federalismo cessa di essere una mera dichiarazione di principio per diventare un vero programma politico. Il nuovo ordinamento federale, pur lasciando a ogni singolo Stato la possibilità di sviluppare la sua vita nazionale nel modo che meglio si adatta al grado e alle peculiarità della sua civiltà, dovrà sottrarre alla sovranità di tutti gli Stati associati i mezzi con cui possono far valere i loro particolarismi egoistici. Dovrà creare e amministrare un corpo di leggi internazionali, al quale tutti dovranno essere sottomessi. I poteri di cui l'autorità federale deve disporre sono quelli che garantiscono la fine definitiva delle politiche nazionali esclusiviste. La federazione deve avere l'esclusivo diritto di reclutare e impiegare le forze armate, di condurre la politica estera, determinare i limiti amministrativi dei vari stati associati, provvedere alla totale abolizione delle barriere protezionistiche, emettere una moneta unica federale. Infine, la federazione dovrà assicurare la piena libertà di movimento di tutti i cittadini entro i confini della federazione. Questa organizzazione si può chiamare degli Stati Uniti d'Europa. Professor Gui, lo chiedo a lei, segretario del Comitato Spinelli, è anche federalista, diciamo, convinto da molti anni. Che tipo di, diciamo, di lascito morale, intellettuale, politico hanno lasciato queste parole che abbiamo appena ascoltato nel dibattito e nell'evoluzione successiva della costruzione europea? Beh, intanto si vede la preveggenza, addirittura la moneta unica federale, che è cosa che abbiamo in tasca da pochi anni. Ma poi, appunto, la cosa che non sempre si sottolinea è che loro vedevano questa costruzione in prospettiva di una società più egualitaria, più giusta. Se noi pensiamo all'oggi, certe storture e certe diseguaglianze che sussistono sarebbero state meglio combattute se avessimo avuto una struttura di questo tipo. Stranamente oggi i divari crescono. Perché? Perché non c'è una garanzia abbastanza forte nei confronti dell'insieme dei cittadini europei. E qual è oggi lo stato di salute, se così si può dire, della costruzione europea dopo, diciamo, il faticoso dibattito che c'è stato sulla Costituzione, i referendum che sono stati bocciati da parte di paesi fondamentali come l'Olanda e la Francia? Quale potrebbe essere lo stato di salute in qualche modo secondo lei? Certamente ci sono stati dei pronunciamenti popolari avversi che chiaramente hanno messo in crisi il processo, però il processo ha un suo abbrivio che a mio avviso non si ferma tanto facilmente, però noi come italiani in modo particolare dovremmo evitare di avere un atteggiamento passivo a riguardo di questo processo, ma viceversa, appunto, considerandolo come un obiettivo di cui noi siamo un po' protagonisti, perché siamo da una parte i più interessati e dall'altra abbiamo questa eredità che è fondata nella Costituzione stessa del nostro Stato, che prevede il passaggio a forme federali o la rinuncia di sovranità. Ecco, dovremmo cominciare a sentire, per esempio, è stato fatto il mercato unico, ma Esiste un livello comparabile di legalità e di uniformità di comportamenti nel mercato unico che possa realmente renderlo tale? Forse no, forse noi italiani dovremmo fare uno sforzo per equipararci ai comportamenti migliori, ma non soltanto per imparare dagli altri, ma per essere più protagonisti nel processo. Faccio un altro esempio di cui non si parla mai. Coloro che chiedono per esempio il federalismo a livello interno, si sono mai accorti che magari piccoli paesi hanno un diritto di veto sulle decisioni dell'Unione Europea che i Lombard, dico per dire, non hanno? Ecco, allora o invochiamo per tutti il diritto di veto, oppure dobbiamo rivalutare proprio la forza anche del nostro paese, delle singole regioni, per far sì che a livello europeo ci sia un governo che risponde alle esigenze di ciascuno senza che magari entità abbastanza diciamo un po' artificiali possano bloccare i processi decisionali che magari gran parte dell'Europa vuole. Se abbiamo un comportamento più attivo, secondo me difendiamo meglio i nostri interessi. Grazie professor Gui. Grazie per questo incontro e per l'occasione di far conoscere al pubblico alcune idee che possono essere utili per tutti. La storia e la memoria. Bentornati con La storia e la memoria. A metà gennaio del 1945, i nazisti di Auschwitz sapevano che entro pochi giorni sarebbe arrivata l'Armata Rossa. Il più grande campo di concentramento e di morte dell'impero nazista aveva ormai le ore contate. Le SS cercarono di eliminare le prove di quanto era successo, bruciarono i documenti e distrussero le camere a gas. Chi aveva lavorato ad Auschwitz sapeva infatti che ben presto gli alleati avrebbero chiesto delle giustificazioni. Questa è la storia di come le SS di Auschwitz, insieme ai pochi prigionieri sopravvissuti, abbandonarono il campo di sterminio durante gli ultimi giorni di guerra. Una storia allo stesso tempo sorprendente e sconvolgente. I militari sovietici liberarono Auschwitz il 27 gennaio del 1945. Trovarono solo una piccola parte dei detenuti. Qualche giorno prima la maggioranza di loro si era incamminata su ordine dei nazisti verso ovest, verso il Reich. Gli altri, troppo deboli per mettersi in marcia, dovevano essere fucilati dalle SS, ma nel trambusto furono lasciati vivi. Vasilij Gromadskij, ufficiale della 60ª Armata. Mi resi conto che erano prigionieri, non operai. Quindi mi misi a gridare: «Siete liberi, venite fuori!» Ci vennero tutti incontro di corsa. Piangevano, ci abbracciavano, ci baciavano. Tra i prigionieri del campo principale di Auschwitz c'erano diverse centinaia di bambini, tra cui molti gemelli, i quali erano stati sottoposti a esperimenti medici. Tra questi c'era l'undicenne Eva Moses Kor. Corremmo verso di loro, ci abbracciarono e ci diedero biscotti e cioccolato. Essendo abbandonati a noi stessi, un abbraccio significava moltissimo. Ci dava quel calore umano che ci era stato strappato con la forza. Non eravamo solo affamati di cibo, ma anche di affetto. Quasi tutti i membri delle SS avevano il gruppo sanguigno tatuato sul braccio. Fu così che gli alleati riuscirono a identificarli, ma non trovarono tutti quelli che avevano lavorato ad Auschwitz, come ad esempio Oskar Gröning. Alla fine della guerra, Gröning fu aggregato a un'unità di combattimento delle SS e fu arrestato al confine danese. Naturalmente, sapevo che la mia appartenenza al campo di concentramento di Auschwitz avrebbe provocato una reazione negativa. Quindi cercai di non far capire ai miei interlocutori che vi avevo lavorato. Ovviamente, sapevamo benissimo che quanto era accaduto nel lager non rispettava i diritti umani. Ciò che non rispettava i diritti umani, come spiega Gröning, fu scoperto dagli inglesi alla liberazione del campo di Bergen-Belsen nell'aprile 1945 e fu definito uno dei peggiori crimini della storia. È proprio a Belsen che furono mandati più di 10.000 prigionieri di Auschwitz prima dell'arrivo dei sovietici. Furono lasciati morire senza cibo né acqua. Nonostante gli ultimi sforzi affrettati delle SS, ovunque si trovavano prove dello sterminio. Fu subito chiaro che era stato commesso un crimine efferato. Solo 84 giorni dopo aver liberato Auschwitz, l'Armata Rossa arrivò a Berlino. Il 30 aprile 1945, l'uomo che aveva voluto gli orrori di Auschwitz Adolf Hitler, si suicidò nel bunker sotto la cancelleria del Reich. Gran parte dell'ex impero nazista era ormai sotto il controllo della Russia di Stalin. E mentre proseguiva la caccia agli esecutori nazisti, migliaia di profughi cercavano di tornarsene a casa. Tra loro c'erano molti ex detenuti di Auschwitz, tra cui Elena Zitronova. Per lei, i soldati russi furono una nuova fonte di terrore. Cercammo diversi nascondigli, ma riuscirono a trovarci e violentarono alcune delle mie amiche. Fecero loro delle cose orribili. Non ci sono parole per spiegare quello che fecero. Le violentarono ripetutamente. Elena riuscì a sfuggire allo stupro soltanto perché sua sorella maggiore, Rozinka, finse di essere sua madre e la protesse. Le violenze continuarono a pochi metri da loro. Sentii urla e grida, poi alla fine il silenzio. Non avevano più le forze. Molte di loro furono violentate e uccise. Furono strangolate. Quei soldati si comportarono come bestie selvagge. Pensammo che se i tedeschi non ci avevano ancora ucciso, sarebbero stati i russi a farlo. Altri ex detenuti di Auschwitz soffrirono per mano dei sovietici, anche con nazionali russi. Nell'ottobre del 1941, 10.000 prigionieri dell'Armata Rossa furono mandati ad Auschwitz per costruire il campo di Birkenau. I pochi che sopravvissero all'orrore dopo la liberazione furono nuovamente perseguitati. Pavel Stenkin, prigioniero di guerra ad Auschwitz. Trovarono la scusa che ad Auschwitz, il campo di sterminio, stessero addestrando delle spie. Qualcuno si era messo in testa questa idea. Tutti erano convinti che mi avessero trasformato in una spia. Pavel Stenkin fu mandato al confino nella città di Perm, sugli Urali. Fu tra le vittime della politica di Stalin, secondo cui tutti gli ex soldati catturati dai tedeschi dovevano essere considerati dei traditori. Quando arrivai a Perm, dove avrei dovuto lavorare, mi chiamavano ogni due sere per dirmi sempre la stessa cosa. Devi ammettere di essere una spia. Io rispondevo ogni volta, non sono una spia, sono un onesto cittadino sovietico. I miei interlocutori ripetevano con tono ironico, cittadino sovietico, e sorridevano. Insistevano dicendomi, confessa e sarà tutto finito. Poi, a un certo punto, decisero di sbarazzarsi di me e mi mandarono in prigione. Per quanto riguarda i dettagli della mia sentenza, credete che abbia mai sentito o letto qualcosa in proposito? Non mi dissero assolutamente niente. I giudici avevano fretta. Avevano dei biglietti per il teatro e volevano finire al più presto. Pavel Stenkin fu mandato in un campo di lavoro nei gulag sovietici. Catturato dai tedeschi nel 1941, fu rilasciato soltanto dopo la morte di Stalin, avvenuta nel 1953. Ero sempre affamato. Solo quando fui liberato dalla prigionia, nel 1953, cominciai a mangiare a sazietà. Mentre gli ex detenuti di Auschwitz cercavano di ricostruirsi una vita, i tedeschi che avevano lavorato nel lager giunsero in Inghilterra con altri membri delle forze armate tedesche. Oskar Gronincz, militare tedesco ad Auschwitz. Parlando dell'Inghilterra, quando arrivammo non fummo più considerati prigionieri di guerra, ma lavoratori tedeschi. La recinzione intorno al nostro campo fu tolta. Ci permisero di formare dei gruppi teatrali. Lavoravamo, avevamo cibo di buona qualità e abbondante. Riuscivamo a guadagnare dei soldi in più aiutando i contadini. Ci davano anche le sigarette. Insomma, nei campi di lavoro non ci facevano mancare niente. Oskar Gröning, il cui legame con Auschwitz non era ancora stato scoperto, entrò in un coro di prigionieri di guerra tedeschi e andò in tournée. Mentre Gröning faceva una piacevole esperienza in Inghilterra, il suo ex capo fu mandato a Cracovia e trattato con meno riguardi. Rudolf Höss trascorse il tempo prima del processo descrivendo la sua esperienza di comandante di Auschwitz e il suo servizio nelle SS. È un documento estremamente prezioso, ricco di importanza storica, che ci permette di capire la sua mentalità. Descrive come guardava le donne e i bambini che venivano portati alle prime camere a gas nelle villette di Birkenau. Tratto da Comandante ad Auschwitz, di Rudolf Hess. Una donna mi si avvicinò e mi indicò i suoi 4 figli che aiutavano i più piccoli sul terreno accidentato. E mi sussurrò: come può arrivare a uccidere bambini così adorabili? Lei non ha cuore. Hess scrisse che dopo episodi del genere andava a cavallo per sgombrare la mente, ma non aveva rimorsi. Le motivazioni alla base del programma di sterminio mi sembravano giuste. Mentre Hess faceva uccidere donne e bambini ad Auschwitz, viveva con la sua famiglia a pochi metri dal campo principale. Quando vedevo i miei figli giocare spensierati, mi chiedevo quanto sarebbe durata la nostra felicità. D'estate giocavano nel fiume Sola e il massimo della gioia era quando papà si univa a loro. Tuttavia aveva poco tempo per questi piaceri infantili. La mia coscienza mi imponeva di essere sempre in servizio. Mia moglie mi rimproverava sempre di non dover pensare soltanto al lavoro, ma anche alla famiglia. Rudolf Hess, il responsabile del luogo dove si svolse l'eccidio più massiccio della storia, nelle sue memorie non esprime mai un vero rimorso per i suoi crimini. Dopo un processo durato 3 settimane, Hess fu condannato a morte. Fu impiccato su un patibolo costruito appositamente sul luogo dei suoi crimini ad Auschwitz. La storia e la memoria. Continua il radiodocumentario in collaborazione con History Channel, dedicato agli orrori del campo di concentramento di Auschwitz. Una volta terminata la guerra e fatto ritorno in patria, per i sopravvissuti alla furia tedesca le sofferenze non erano ancora terminate. Dovevano ora fare i conti con una dura realtà, fatta di sospetti e miseria. Quando tornarono a casa, molti, proprio qui in Slovacchia, pensavano di riprendere la vita di un tempo. Tuttavia li attendeva una brutta sorpresa. Qui i loro diritti di proprietà contavano ben poco. Un problema che Libusha Breder, ex prigioniera di Auschwitz, scoprì al ritorno nella sua città natale, Stropkov. Finalmente arrivai davanti a casa mia. Bussai al grande cancello e un uomo venne ad aprirmi chiedendomi: cosa vuole? Gli risposi che ero tornata a casa. Appena sentì le mie parole mi disse: perché non se ne torna da dove è venuta? E mi sbatté la porta in faccia. Rimasi impietrita. Percorsi la strada principale e mi resi conto che tutte le case dove un tempo abitavano i miei parenti ora erano occupate da altre persone. Libusha Breder aveva trascorso quasi 3 anni ad Auschwitz, costretta a lavorare nella zona del lager dove venivano smistati gli oggetti dei deportati. Mi pentii di essere tornata a casa. Tutti mantenevano le distanze come se fossi infetta. Probabilmente temevano di dover restituire le proprietà confiscate. Partii il giorno seguente e non tornai mai più. Il ritorno a casa fu la mia esperienza peggiore. Oltre alle lapidi nei cimiteri, non ci sono altre prove di fiorenti comunità ebraiche in questa zona. Dopo la guerra, i pochi sopravvissuti ai campi di sterminio recuperarono i loro soldi o le loro proprietà. Fu un'enorme ingiustizia, aggravata dal fatto che i membri al vertice delle SS furono aiutati ad abbandonare l'Europa e a fuggire. In Germania erano gli anni del cosiddetto miracolo economico. Ma alcune persone che percorrevano le strade avevano un passato che volevano assolutamente nascondere. Oskar Gröning aveva lavorato ad Auschwitz per quasi 2 anni. Era diventato un padre di famiglia e lavorava nell'ufficio del personale di una fabbrica di vetro. Non era consigliabile parlare di Auschwitz in sua presenza. Ricordo che un giorno andai a casa di mio padre, dove c'erano anche i genitori di mia madre. Mentre cenavamo, la nonna se ne uscì con delle stupide osservazioni su Auschwitz e disse: tu sei un assassino potenziale o reale, e ciononostante puoi sedere a tavola con noi. Qui sei semplicemente tollerato. Allora picchiai il pugno sulla tavola e sbottai. Ricordatevi bene che non dovrete mai più menzionare in mia presenza questo argomento e non dovrete mai più dire la parola assassino, altrimenti me ne vado. Ci fu qualcuno che cercò di farsi giustizia da solo. Tra questi c'erano i membri della Brigata Ebraica, un'unità dell'esercito inglese creata nel 1944. Combatterono contro i tedeschi in Italia e in quel periodo vennero a sapere dei crimini commessi dai nazisti. Soldati come Moshe Tavor decisero di fare qualcosa. Eravamo sempre più arrabbiati. Per molti di noi non bastava aver semplicemente partecipato alla guerra. Formammo un gruppetto e decidemmo di fare qualcosa per vendicarci di quei criminali. Non speravamo di prenderli tutti, ma speravamo di trovarne almeno qualcuno. Utilizzando le fonti a loro disposizione, cercarono di rintracciare tutti i nazisti che potevano aver preso parte allo sterminio degli ebrei. Andavano a casa loro e li portavano via dicendo che li avrebbero semplicemente interrogati. Li portavamo in un luogo che avevamo stabilito in precedenza, come ad esempio una foresta o un luogo disabitato. Gli facevamo un processo e gli leggevamo tutte le accuse. Si basavano sulle notizie che avevamo avuto dai nostri informatori. In alcuni casi il tedesco aveva l'opportunità di dire qualche parola per difendersi e poi lo uccidevamo. Di solito uno di noi lo strangolava. Lei ha mai strangolato qualcuno? Sì. Non ero particolarmente felice di farlo, ma l'ho fatto. Ero perfettamente consapevole di ciò che facevo. Non dovevo bere per sollevarmi il morale. Ero sempre sereno. Sapevo che i miei zii, i miei nonni e altri parenti, decine di persone, erano stati massacrati. Lei ha ucciso delle persone senza avergli fatto un regolare processo. Cosa prova a riguardo? Come lo spiega? Nella mia vita, fino ad allora, avevo già fatto diverse cose che non erano propriamente corrette, ma non posso dire di sentirmi colpevole per quanto ho fatto a loro. Anzi, il contrario. Mi sento colpevole per quello che non gli abbiamo fatto. La caccia ad alcuni tra i più noti membri delle SS implicati nello sterminio degli ebrei si era intensificata. Come ad esempio al tenente colonnello Adolf Eichmann, che aveva visitato Auschwitz diverse volte per verificare i progressi dell'eccidio. Dopo la guerra sembrava misteriosamente sparito. Ben presto divenne il bersaglio di una squadra israeliana tra cui figurava Moshe Tavor. Lo colpì e Zvika gli saltò addosso. Sul lato della strada c'era un fossato e ci finirono dentro. Io presi i piedi di Eichmann mentre Zvika lo teneva fermo e alla fine arrivò anche Rafi. Lo trascinammo sull'automobile e gli tappammo la bocca. Poi gli mettemmo degli occhiali scuri in modo che non potesse vedere niente. Se fosse stato per me avrei semplificato le cose. Lo avrei strangolato lì per lì e l'avrei fatta finita. Dopo un processo durato 4 mesi, Adolf Eichmann fu condannato a morte. Mi offrii ufficialmente per eseguire la condanna. Il superiore di Moshe Tavor declinò gentilmente la sua offerta, dicendo che aveva già fatto abbastanza. Il processo e l'esecuzione di Adolf Eichmann furono molto pubblicizzati, ma oscuravano una verità meno nota. Di un totale di circa 8.000 membri delle SS che avevano lavorato ad Auschwitz, 7.000 erano sopravvissuti alla guerra. Quanti di loro sarebbero stati processati? A Francoforte, nel dicembre 1963, 22 persone furono accusate di crimini compiuti ad Auschwitz. 17 furono condannate e 6 di loro presero l'ergastolo. La pubblica accusa cercò di rintracciare il maggior numero possibile di SS che avessero legami con Auschwitz. Alla fine risalirono anche a Oskar Gröning, ma decisero di non incriminarlo. Oskar Gröning non è semplicemente vissuto nel luogo dove avvenne lo sterminio degli ebrei. Come ogni membro delle SS di Auschwitz, partecipò attivamente alla gestione del lager. Oskar Gröning contava la valuta straniera sottratta agli ebrei e la portava a Berlino. Inoltre, sorvegliava gli oggetti dei deportati subito dopo il loro arrivo. Ci furono altri che ebbero un legame molto più stretto con la procedura di sterminio e molti di loro non erano neanche nazisti. Un forno crematorio veniva fatto funzionare da 4 membri delle SS e da un centinaio di prigionieri del Sonderkommando. Whitney Harris, pubblico ministero al processo di Norimberga. Venivano costretti. Se si fossero rifiutati, li avrebbero mandati immediatamente nelle camere a gas. Per poter vivere un po' di più, eseguivano gli ordini. I Sonderkommando non erano formati da volontari, erano loro stessi vittime. Anche loro finirono nelle camere a gas quando arrivò il loro momento. Tuttavia, erano sempre i nazisti a compiere il gesto omicida di gettare i cristalli di Zyklon B nei portelli delle camere a gas. I prigionieri del Sonderkommando dovevano eseguire altri incarichi necessari a far funzionare la fabbrica della morte, tra cui togliere e cremare i corpi. In questo modo, dopo la guerra, la maggior parte delle SS poté sostenere di non aver mai lavorato nei forni crematori e nelle camere a gas. Ancora Whitney Harris. Gli altri che avevano lavorato all'interno dei campi di concentramento avevano collaborato con il sistema, è vero, ma i loro crimini non furono considerati abbastanza gravi e nessun paese volle processarli. Dei 7.000 membri delle SS che lavorarono ad Auschwitz e che sopravvissero alla guerra, meno di 800 furono processati. Circa il 90% non fu mai incriminato. Dai verbali del processo ad Oskar Gröning. Secondo lei è giusto che chi ha sofferto conduca una vita piena di difficoltà, mentre uno come lei, che ha preso parte alla macchina della morte, abbia una vita agiata? È sempre così. Avrei forse dovuto indossare il cilicio, come accade nell'opera Tannhäuser, e passare la mia esistenza vivendo di stenti e di elemosina perché facevo parte di quella cerchia di persone. Invece, per me, c'è un'altra soluzione. Ogni uomo ha la libertà di fare del proprio meglio nella situazione in cui si trova. Per molti ex prigionieri dei campi di morte, la vita dopo la guerra è stata irta di difficoltà. In luoghi come Svizzera, in Polonia, gran parte delle case dove un tempo vivevano gli ebrei è ancora occupata da altri. Negli anni 90, dopo il crollo del muro di Berlino, un sopravvissuto ai lager, Thomas Blatt, tornò a vedere la casa della sua infanzia ed ebbe un incontro sorprendente con chi la occupava. Mi fece entrare e vidi la mia vecchia sedia di tanti anni prima. Dissi, riconosco quella sedia, mio padre si sedeva sempre lì. Lui mi disse, no, l'ho comprata io. Allora presi la sedia, la capovolsi e vidi che c'era ancora il nostro nome scritto sotto. Lui si guardò intorno e disse, signor Blatt, perché fa tutta questa commedia con la sedia? So perché è venuto. Lei vuole i soldi che i suoi genitori hanno nascosto anni fa. Era molto arrabbiato. Io mi guardai intorno, dissi che non volevo niente e salutai. Lui mi richiamò e disse, aspetti, se vuole prendere i soldi potremmo fare a metà, 50% a lei e 50% a me. Allora me ne andai. Qualche anno dopo, Thomas Blatt tornò a Svizzera. La casa della sua famiglia non era più agibile. Andai dai vicini a chiedere cosa fosse successo e mi dissero che da quando ero venuto non avevano più dormito perché quel signore aveva continuato notte e giorno a cercare l'ipotetico tesoro. Aveva divelto il pavimento, sfondato le mura. Alla fine si era trovato nell'impossibilità di ripararla. Avrebbe speso troppi soldi, quindi l'aveva abbandonata lasciandola in rovina. C'è addirittura chi nega l'evidenza di quanto sia accaduto qui. Ed è stato per smentire questa convinzione che Oskar Gröning ha deciso di rompere il silenzio riguardo alla sua storia personale. Ora, alla mia età, mi sento di dover dire le cose come stanno e di contraddire tutti coloro che negano l'esistenza di Auschwitz. Per questo oggi mi trovo qui. Voglio dire a tutte quelle persone che ho visto le camere a gas e i forni crematori. Ho visto le fiamme che ardevano. Quindi vorrei convincerle che queste atrocità sono realmente accadute. Io c'ero. In 4 anni e mezzo, 1.300.000 persone furono mandate ad Auschwitz. Di loro, 1.100.000 morirono. furono sterminati centinaia di testimoni di Geova, di omosessuali e altre minoranze. 15.000 prigionieri di guerra sovietici, 21.000 zingari, 70.000 prigionieri politici polacchi e 1 milione di ebrei, tra cui almeno 200.000 bambini. La prova di quanto i nazisti hanno compiuto si trova qui. Attende solo di essere riscoperta dalle generazioni future. Una testimonianza di cosa arrivano a concepire gli esseri umani. Prima di chiudere, vi segnaliamo che questo documentario andrà in onda su History Channel col titolo Auschwitz, la fabbrica dello sterminio. Non ci sarà mai pace. Il 24 dicembre alle 4:40. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Daniele Casagrande. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.